Last Minute, agenda degli appuntamenti e contenitore culturale di Radio Città Fujiko. E di nuovo in diretta è un Last Minute, spazio di approfondimento, ecco, definiamolo così, perché inizierà ufficialmente il 26 giugno, quindi si è vicino, in piena estate, ma è uno spazio di approfondimento, non è esattamente il tipico Last Minute. Ne troveremo diversi, vista l'anticipazione e la ricca estate bolognese, e non solo 2024. È un festival scena natura, dialogo tra le arti e il verde. È la sesta edizione, ieri è stato presentato. La curatela è di Crexida Anima Fluo. Fienile Fluo è il luogo appunto dove troveremo questo motivo di incontro tra spettacoli teatrali, concerti, performance di danza, spettacoli immersivi, scenari naturali. È un contesto paesaggistico delle colline bolognesi, zona di Paderno. È un anfiteatro naturale, ma non è unicamente uno spazio già di per sé importantissimo per quanto riguarda questi incontri. È anche un contenuto che porta, oltre che un'attenzione enogastronomica legata allo spettacolo stesso il più delle volte, anche una qualità e un motivo di incontro eterogeneo, non solamente per l'aspetto artistico, ma anche per un dialogo, oltre che con la natura, con il paesaggio, anche con se stessi in relazione agli altri. Progetti immersivi, ve li ho citati, non solo teatro, arte, anche cinema, anche una piccola rassegna di cui avremo modo magari dopo aver portato la voce di Angelica Zanardi, direttrice artistica della sesta edizione di, appunto, come vi ho detto, ne è stata portata presentazione ieri, scena e natura del festival stesso, sarà anche in scena con alcuni progetti da lei appunto ideati e creati, e quindi iniziamo ad approfondirne le realtà con la protagonista, direttrice artistica e, come ho detto, co-protagonista in scena per la rassegna oggi in questo spazio di approfondimento. Ci presentiamo, siamo con Angelica Zanardi per un nuovo percorso, nuovo è la sesta edizione, ma sicuramente ci saranno novità. Ci puoi dare qualche anticipazione? Sì, tantissime novità. Il nostro festival combina diversi linguaggi artistici, teatro, danza, musica, eventi immersivi in natura, cinema. Ci saranno oltre 30 appuntamenti, partiamo il 26 giugno e finiamo il 20 di settembre. Protagonisti, partiamo col teatro, che è il nostro ambito di elezione. Avremo la compagnia Gnomini con lo spettacolo Truccioli il 3 luglio, poi ci sarà il nostro spettacolo, 4 repliche, dal 10 luglio, 17, 24 e 1 agosto. Lo spettacolo si chiama Tzatziki, è uno spettacolo che noi amiamo definire una degustazione teatrale per liberare i sensi, quindi uno spettacolo che sollecita gli spettatori, segna a riscoprire il piacere di assaporare il cibo, ma come metafora di assaporare qualcos'altro, insomma assaporare la vita ogni istante. Poi ci sarà lo spettacolo The Show della compagnia Simmetrie Artistiche con Elisa Denti, la regia di Delia, questo sarà il 31 di luglio. E poi due spettacoli della categoria Scena Natura Open, spettacoli di artisti giovani, noi diamo spazio anche a artisti giovani che fanno residenza e presentano il loro lavoro. In questo caso sono lo spettacolo Mamma Blues e lo spettacolo Sei la fine del mondo letteralmente. Poi abbiamo eventi immersivi in natura, che è una cosa che caratterizza fortemente il nostro festival, il nostro progetto, passeggiata diurna e notturna dedicata agli alberi, tra gli alberi walk e tra gli alberi by night. Un'esperienza molto bella con degustazioni olfattive. Un altro progetto a cui teniamo molto si chiama Stelle, della compagnia trentina Miscele d'Aria. Loro la definiscono un'opera sonora ed immersiva. Gli spettatori saranno invitati, e questo sarà il 10 agosto, ad osservare le stelle mentre ascoltano in cuffia suoni, voci e la musica suonata in diretta dai 6 musicisti in scena. 4 concerti musicali: Francesco Cavestri, che presenta il suo disco, pianista, artista bolognese, la cantautrice francese Emmanuelle Sigal, un giovane gruppo, gli Odal, due musicisti brasiliani molto bravi, Marco Lobo e Daniela Firpo, e poi un'installazione live musicale di due artisti austriaci. Saranno da noi in residenza, costruiranno questi aquiloni con flauti eolici, registreranno e quella sera manderanno video, suoni e suoneranno in diretta. Due parole sulla sede di questa rassegna. Il Festival Cielo e Natura si svolgerà a Fieni-les-Fluo, nel nostro bellissimo anfiteatro di fronte ai Calanchi, e in zone limitrofe dove si svolgeranno le passeggiate. Quest'anno organizzeremo anche un servizio navetta che speriamo ci porti nuovi spettatori. Partirà da Via d'Azeglio, di fronte al San Luigi, durante alcune serate di spettacolo. Per tutte le informazioni, orari e prezzi, consultate il nostro sito crexida.com/scenanatura o Fieni-les-Fluo. Inizio ufficiale? 26 di giugno. Io ti ringrazio tanto. Grazie a voi. Buon festival. Grazie. Sesta edizione Scena Natura, la curatele di Crexidra Fluo, Anima Fluo, per quanto riguarda l'estate 2024. Come ho detto, Tra l'altro li sto riscoprendo anche io, che sono il tipico marittimo. Colli bolognesi hanno delle particolarità veramente suggestive, ma non solo. In questo caso un palcoscenico naturale in prossimità dei Calanchi in zona Paderno, come avete ascoltato dalla presentazione in linea generale della direttrice artistica e coprotagonista sul palcoscenico di Fienile Fluo, Angelica Zanardi, tanto in una rassegna eterogenea che va dal cinema alla musica, all'arte, teatro, di cui parleremo e di cui appunto volevo approfondire anche determinati ospiti protagonisti, oltre che le produzioni Crexida Anima Fluo stesse, con Tzatziki, che già dal nome mi ha lasciato così tanto curioso, in quanto questa tipica salsa di yogurt e cetriolo e aglio, questo contorno ellenico, è una delle, anche se sono molto tradizionalista nel cibo come ben sapete, però è una divagazione che a me piace tantissimo. Ecco, già il nome mi ha portato così a sognare gli spazi e le splendide isole greche, pur essendo in un contesto tipicamente collinare. Altrettanto bello la musica. Beh, la musica, abbiamo ascoltato la nostra amica Daniela Firpo, che sarà con Marco Lobo un viaggio nell'anima musicale del Brasile. La voce di Daniela Firpo, l'introspezione, il racconto, il 28 luglio alle 19.30, alle 21.30, un viaggio nell'anima musicale del Brasile. Per la colonna sonora ho portato Daniela Firpo, ma ovviamente c'è tanto l'elettronica e il post rock degli Odal per una Dream Pop il 4 agosto. Resto sempre per quanto riguarda la musica e anche un aspetto sperimentale di un duo viennese, austriaco, adesso non so se viennese perché ho portato Kruder Dorfmeister a proposito di Austria e Vienna, come state ascoltando, che darà modo di portare sonorità in un particolare field recording volante. Ma parliamo anche di teatro, teatro è protagonista. Hanno portato a conclusione il programma Agora e aprono il programma Fienile Fluo mercoledì 3 luglio alle ore 22, Trucioli, lo spettacolo degli Omini con la collaborazione di Met Teatro Metastasio. Sapete, le indagini degli Omini, in questo caso visto la presenza di una natura positivamente dominante, hanno portato il loro lavoro Trucioli, che sarà, come vi ho detto in precedenza, mercoledì 3 luglio alle ore 22. Too late. 10, 17, 24 luglio e 7 agosto alle ore 22 torna Tzatziki, ricette per esploratori dell'anima, come vi ho detto, in scena su testo originale di Manuela De Meo e Angelica Zanardi, con quest'ultima protagonista sul palcoscenico assieme a Marco Muzzati per quanto riguarda la musica. Il 10 agosto alle 22, Tempo di Stelle, un'opera sonora ed immersiva, il momento in cui appunto questo sguardo verso il cielo porta alla particolarità, esprimete un desiderio in un contesto bellissimo. E comunque, per consultare gli appuntamenti, vado in conclusione con il cinema, questa, pensate quante proposte che vi sono per quanto riguarda Scena Natura, sesta edizione. Allora, il cinema, i tre appuntamenti, si parte con un capolavoro di Spike Lee, sarà dedicata alla città, la piccola rassegna ma di grande contenuto, con Do the Right Thing di Spike Lee. Poi una Bologna mai vista al cinema, con un film di Luciano Osti, 8 mm le modalità di ripresa, una Bologna ritratta tra gli anni 50 e gli anni 60. La musica sarà protagonista perché la proiezione sarà commentata dal vivo, la proiezione di Bologna dei miei tempi. 11 luglio, La città al cinema, Paris Vous Part, 6 episodi ambientati in diversi quartieri di Parigi. E siamo giunti alla conclusione anche del Last Minute di oggi, martedì imprevedibile 18 giugno, già è puntuale in redazione con noi il Rookie of the Year, visto che siamo a termine di stagione, Pietro Rossi appunto finalmente di ritorno, e se no revocavo il premio, in questo caso sta sorridendo perché sa che scherzo, e la palla a due portata da Paolo Onofri. Abbiamo tante argomentazioni quest'oggi, saluto a Jerry West, i miei Boston Celtics, anche se non so, sapete bene che non ho seguito neanche una partita, non sapevo neanche chi erano gli avversari, per cui magari Pietro e Paolo ne parleranno per darmi qualche informazione. Hanno vinto l'anello NBA del 2023-2024, quindi ne sono contento, però completamente disinformato. E poi tanto e oltre di più con, come vi ho detto, il saluto alla nostra Spoon River, al grande Jerry West in partenza al multigroup di oggi, subito dopo la pubblicità. A tra poco!